Vorrei che fosse nei miei occhi per convincerla. Vorrei spiegarle cosa provo dentro l'anima, ma certa gente no, non mi capirà. E certa gente no, se ne accorgerà. E io ho sempre sulla punta della lingua, pronto a criticare ogni tua mossa, che sia vera oppure finta. Giudica ogni passo anticipato, valuta l'aspetto e non importa che sia giusto o sia sbagliato. Critica perché non sa comprendere, spesso non conosce ma lo fa perché non ha niente da perdere. Prende un'aria superiore, ti squadra e ti disprezza perché in fondo crede di essere migliore. Molta gente ha dubbi e pregiudizi, per la mentalità, per esperienza, solo perché ha brutti vizi. Dove se fai quello che vuole sei accettato, e dove se provi a non capire vieni emarginato. Certa gente si convince dell'aspetto, si ferma all'apparenza e non guarda chi c'è dentro. Certe azioni a volte in un momento ambiguo, e son poche le persone che comprendono il motivo. Vorrei che fosse nei miei occhi per convincerla. Vorrei spiegarle cosa provo dentro l'anima, ma certa gente no, non mi capirà. E certa gente parla troppo, promette e non conclude. Chi si crea una maschera e dentro ci si chiude. Si atteggia e si rivela quello che in realtà non è. Per una scelta, per convenienza, non so perché. So solamente che ogni testa gioca le sue carte. Un orgoglio ferito non lo si mette da parte. No, difficilmente viene ammesso un proprio errore. Si preferisce piangere ed assumere il dolore. C'è chi è troppo falso e lo si riconosce al volo. Chi lo fa soltanto per non rimanere solo. Chi sembra troppo bravo rivelandosi il contrario, e non trovi un aggettivo neanche sul vocabolario. C'è chi non si espone perché ha troppa paura. Non sapere cosa accade dopo impone una censura. Chi si butta perché vuole vivere e scoprire. Se non prova non può mai sapere come andrà a finire. Vorrei che fosse nei miei occhi per convincerla. Vorrei spiegarle cosa provo dentro l'anima, ma certa gente no, non mi capirà. E certa gente no, se ne accorgerà. C'è chi ha la testa tra le nuvole, riesce a volare via, e per sentirsi libero viaggia con la fantasia. Chi se la prende comoda e procede a passo lento, e chi corre perché ha fretta e non può sprecare tempo. C'è chi soffre dentro ma non dice una parola, e chi vorrebbe ma se prova gli tagliano la gola. Chi vorrebbe piangere ma non riesce a farlo, e chi piange solamente perché è debole e codardo. Chi si perde nello sport, nei soldi, nell'amore, nella droga, nel lavoro e chi negli hobby. C'è chi impazzisce per la troppa TV, condizionato da parole finte e non ragiona più. C'è chi rimane dritto e procede a testa alta, e chi per non salutarti si gira e non ti guarda. La gente in fondo cosa vuole? Sentire una canzone e ritrovarsi nelle sue stesse parole. Vorrei che fosse nei miei occhi per convincerla. Vorrei spiegarle cosa provo dentro l'anima, ma certa gente no, non mi capirà. E certa gente no, se ne accorgerà.